Torniamo a Astariti, preside. Dunque, Astariti è il primo della classe. E Vivaldi che fa? Mette 6 in italiano e 6 in storia. Preside, Astariti non è bravo. Astariti è un primo della classe. Astariti non c'ha i capelli tagliati alla moicana, non si veste come il figlio di uno spacciatore, non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Astariti è pulito, perfetto. Interrogato si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli. Ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro. Alla fine gli metto 8, ma vorrei tagliarmi la coda. Ma perché Astariti è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali di Matteo Caccia. Non l'ha detto direttamente a me e quello mi ha fatto più arrabbiare, perché non mi avevano chiesto né pareri né niente, cosa ne pensavo io, come mi sarei potuta sentire. È da qui che ho iniziato a odiare, insomma. Quando sentii mia madre riferire a mia nonna "cambieranno scuola", il mio cuore ha cominciato a battere sempre più forte. Storie di trasferimenti e di grandi bugie, in una puntata tutta dedicata al vizio dell'ira. La puntata di oggi non è una puntata qualunque, lo so che lo dico tipo una volta a settimana, però in questo caso lo è, non che le altre non lo siano. Questa lo è per un motivo molto specifico, ed è che abbiamo la storia di una persona molto molto giovane. Non capita spesso, anzi capita molto raramente, ma è capitato per un motivo ben preciso. Allora, voi saprete, insomma, se ascoltate la radio o se vi informate sulla radio in sé, la radio è un mezzo che viene ascoltato abitualmente da persone adulte, da persone che hanno attorno minimo 30 anni, dai 30 anni in su, quindi è difficile che le persone al di sotto di quell'età si avvicinino a questo mezzo, per i motivi che sappiamo, i social, gli smartphone, bla bla bla bla, e quindi è difficile anche per noi poter avere delle storie che arrivino da persone così giovani. Ma ogni tanto succede un piccolo miracolo, e il piccolo miracolo che è successo qui a Linee d'Ombra ha un nome preciso, ed è Luca. Luca è un insegnante di una scuola in provincia di Belluno, che ascolta la radio. Ascolta la radio, ascolta Radio 24, ascolta Linee d'Ombra, e ci ha mandato questa mail. Ciao Matteo, sono Luca, eccetera eccetera. Nelle mie due terze, mi scrive, lui insegna italiano, stiamo affrontando la Divina Commedia e voi parlate di vizi capitali. Io non potevo non cogliere l'occasione di scriverti e di fare scrivere alla mia classe di ragazzi un episodio, una storia sui loro vizi. Quindi parliamo di ragazzi delle scuole superiori, 16-17 anni. Ti abbiamo bombardato con un flash di mail di una classe intera. Effettivamente noi abbiamo ricevuto a un certo punto a Linee d'Ombra @radio24.it, dove ci arrivano tutte le storie, un blocco di mail che avevano qualcosa in comune, insomma, che si somigliavano per i nomi, per i riferimenti e per il fatto che avevano il nome di una scuola. E mi scrive Luca ancora: noterai che moltissimi di loro hanno scelto il tema della rabbia. Abbiamo bombardato appunto con queste mail e poi ripeteremo con un'altra classe. Hanno scelto il tema della rabbia. Io li conosco solo da quest'anno, da poche settimane, mi scrive, ma molti di loro hanno tirato fuori livore, veleno, cattiveria e odio. Stiamo parlando di ragazzini intorno ai 16 anni, lo ripeto. La scrittura serve loro per confidarsi, non tanto con me, che per loro sono quasi uno sconosciuto, quanto per loro stessi. Qualcuno di loro, finita la storia, ne ha raccontata un'altra, perché avevano voglia di raccontare. Si sono raccontati, ripeto, ma principalmente a loro stessi. Io sono molto molto grato a Luca per aver chiesto ai suoi studenti, ai suoi ragazzi, di mandarci delle storie. Anita mi raccontava che parlando con Luca, lui stesso gli diceva: sai, quando diamo il tema in classe e gli chiediamo di fare, insomma, tema, svolgimento, è come se gli mancasse qualcosa di interessante. Davvero, per certi versi, la scuola di oggi è rimasta ferma a 50 anni fa, e le cose che fanno i ragazzi di oggi sono le stesse cose che facevamo noi, ed è un po' strano che sia così, in effetti, considerato quanto è cambiato il mondo. Non tanto il mondo, quanto è cambiato tutto, il modo di fruire le informazioni, di fruire i contenuti, di cercarli, di scriverli. Quindi, insomma, Luca dice: abbiamo fatto così, loro non ascoltano la radio, ma io sì, e quindi gli ho chiesto di immaginare non tanto un tema, di immaginare un episodio, quello che chiediamo noi qui a Linee d'Ombra, un episodio che racconti qualcosa di loro che ha a che fare con un vizio capitale. E sono arrivati, e i ragazzi hanno scritto tantissimo, e la storia di oggi è la storia di Maya, che è una di questi ragazzi, una ragazza evidentemente, che ha deciso di raccontarci una storia legata a un momento di ira, ma non uno scatto d'ira, che è quello che di solito accade quando ci arrivano storie di ira di persone adulte, no? Dei momenti in cui perdiamo la pazienza, le cose si accumulano, c'è la solita goccia che fa traboccare tutto e boom, abbiamo uno sbotto d'ira. No, questa è una ira, una rabbia, un odio, dice lei, molto più profondo, che addirittura viene scatenato da un episodio e poi si radica profondamente dentro di lei. Non so se avete dei figli, non so se avete figli attorno ai 16 anni, ma credo che anche per persone come me, della mia età, che non hanno figli, questo sia un momento molto importante, sentire che cosa hanno da dire le persone che spesso quella voce non ce l'hanno, cioè le persone molto giovani, gli adolescenti. Questa è la storia di Maya, benvenuti a Linea d'Ombra. Era una giornata d'estate, come ogni estate, uguale ad ogni altra. La passavo insieme a mia sorella e a mio fratello dai nonni. Avevo appena finito di mangiare e, come al solito, dopo il pranzo, sarebbe arrivata nostra madre dal lavoro per portarci a casa. Ero seduta su una sedia a leggere un libro, non mi ricordo quale, so solo che era così bello che nemmeno mi ero accorta dell'arrivo di mia madre. Appena sentii la sua voce, lessi il più velocemente possibile l'ultima facciata del capitolo del libro e dopodiché lo chiusi. A ripensarci, forse sarebbe stato meglio non chiudere quel libro. E forse non era neppure il caso di accorgermi del suo arrivo. Quella splendida giornata, calda con un bel sole, si stava trasformando nella peggiore giornata della mia vita, in seguito alla quale tutto sarebbe cambiato. In quel periodo avevo 9 anni. Quando mia mamma è arrivata a casa dei nonni, dove c'ero io, e è arrivata e ha detto a mia nonna che avrei cambiato scuola, cioè non solo io, anche mia sorella. E quando l'ha detto io mi sono sentita strana, male, insomma, perché non me la sarei mai aspettata né da lei né da mio papà. Cambiare scuola, sinceramente, non sapevo come sarebbe stato. E quando è successo, infatti, non è stata una cosa fantastica. Da tempo sentivo che i miei genitori nascondevano qualcosa, sia a me sia a mia sorella. E io provo paura quando fanno così. Quando sentii mia madre riferire a mia nonna «cambieranno scuola», il mio cuore ha cominciato a battere sempre più forte. Il sangue nelle mie vene correva sempre più caldo. Soprattutto sentivo quella voglia e quel bisogno di urlare il più forte possibile, come se dovessi liberarmi da tutta la rabbia accumulata nel corso degli anni. Non so quanti secondi siano passati dal momento in cui quella frase uscì dalla bocca di mia madre. So solo che ero così arrabbiata che ho cominciato prima a piangere e poi a pronunciare frasi sconnesse, imprecazioni e, se ne fossi stata capace, anche bestemmie. Provavo rabbia, quel sentimento violento e incontrollabile che mi ha portato ad iniziare a odiare. Non avevo mai odiato qualcuno, non sapevo nemmeno che cosa significasse odiare, ma da quel giorno i miei genitori avevano incominciato a farmi capire che cosa fosse. Mi veniva da rompere tutto, da scaraventare qualcosa o qualcuno fuori dalla finestra. Sentivo qualcosa andare a 300 all'ora nel mio cervello e sì, un caldo tremendo nella mia testa, come se qualcosa stesse per scoppiare. Mi pare normale sentire una cosa del genere, anche perché ero solo una ragazzina di 9 anni e venire a sapere una cosa così grande dopo 2 anni di scuola dove avevo legato sia con gli insegnanti sia con i compagni di classe era troppo. Non poteva finire così. Non avevo avuto nemmeno la possibilità di salutare tutti e di comunicare dove sarei andata, anche se in realtà non lo sapevo nemmeno io dove sarei andata. Che cazzo, avevo paura di non incontrare gli amici come avevo incontrato in quella scuola che avevo frequentato per quei 2 anni e infatti è così successo, infatti mi sono ritrovata male. E il fatto di andare ogni giorno in quella nuova scuola dove venivo per sempre preso in giro allora non mi andava più giù, insomma. Credo di avere squadrato mia madre più di 3.000 volte quel giorno. Non le ho rivolto la parola per molto tempo, ma non solo a lei, neppure a mio padre, perché questa era una decisione di entrambi. Mi aveva così sconvolta questa scelta che nemmeno io sapevo cosa pensare. Questo a loro non importava, a loro non interessava come mi sentissi io, che cosa provassi, cosa ne pensassi, perché questa decisione sulla mia vita avrebbero dovuto condividerla con me. Perché riguardava me, perché ero io in mezzo a tutto questo. Io ero l'oggetto che doveva essere spostato, dove allora andava meglio, per comodità o per qualsiasi altro motivo. E a me questo non andava bene, mi sentivo ignorata. Non so cosa ne pensasse mia sorella, tanto lei era all'ultimo anno delle elementari e sinceramente non è che mi interessasse così tanto di lei. Ma io, che avevo appena iniziato quella scuola e che solo ora mi stavo ambientando, sentivo che tutto mi veniva portato via. Sottolineo che non è facile vivere così. Appena ti ambienti in un posto dove conosci persone che magari ti vogliono bene e che ti stanno simpatiche, da lì di sicuro non te ne vuoi più andare. Ma a me è successo. Senza sentire il mio parere, i miei genitori mi hanno obbligata a cambiare scuola e ad iniziare tutto da capo. Qui ho iniziato ad odiarli. Non li ho perdonati e mai li perdonerò per avermi mandato in un'altra scuola dove tutti coloro che mi vedevano diversa per vari motivi mi prendevano in giro. Frequentare 3 anni le elementari e 3 anni le medie così non è stata una cosa piacevole per me, in quanto non mi sono trovata bene né con i compagni di classe né con gli insegnanti. Può sembrare che io sia troppo dura con i miei genitori, ma finché nessuno cammina nelle mie scarpe almeno per un po', deve solo ascoltare e comprendere chi racconta. I would say about the things that put me through, the pain I've been subjected to, but the Lord himself forward blush. The countless beasts laid at my feet, forbidden fruits for me to eat, but I think your pulse would start to rush. And now I'm not looking for absolution, forgiveness for the things I do. Judge and jurors, my intentions couldn't have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind. La puntata di oggi è tutta dedicata all'ira, lo avete sentito dalla storia di Maya. La storia di Maya non è una storia qualunque, non è una storia qualunque per noi quantomeno, è molto preziosa per diversi motivi. Primo perché arriva da una ragazza molto giovane e non è così facile avere delle storie da persone che hanno meno di 30-40 anni, in particolar modo tramite utilizzando un mezzo radiofonico, che è un mezzo che non è ascoltato da persone abitualmente molto molto giovani, quindi ci fa molto piacere per questo motivo e ci fa piacere perché Maya ci racconta questa storia di ira e di rabbia totalmente fuori dai denti, senza nessuna inibizione, e quindi sono anche molto felice ovviamente di averla al telefono. Pronto, ciao Maya, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, bene. Te? Io alla grande, Maya. Soprattutto perché mi hai detto te, così che già temevo mi dessi del lei, quindi tu, cioè per un pluriquarantenne, quando una persona giovane gli dà del tu, insomma, lo rende felice, quindi sappilo in futuro, se incontri dei pluriquarantenni, dai loro del tu e loro sono felici, non dai del lei. Maya, veniamo a noi, o meglio, veniamo alla tua storia. Quanto tempo fa succedeva questo, l'episodio che ci hai raccontato? Quando avevo 9 anni, quindi un bel po' di tempo fa. Adesso ne hai, perdonami, ricordami, 16, 17? 16, quindi parliamo di 7 anni fa. Mi descrivi esattamente cosa intendi per rabbia, odio, quando parli del sentimento che hai nei confronti dei tuoi genitori, che in sostanza ti, lo dico male, ti spostano come un pacco. Questo è quello che tu racconti, grosso modo. Cioè, non saprei proprio come spiegarlo, perché in quel momento era come se volessi scaraventare tutto quello che avevo davanti per terra. Era un sentimento che non avevi mai provato prima? No. Cioè, non in quella forma? No, esatto, no. Non sei riuscita a verbalizzarla, cioè non sei riuscita a raccontare a tua mamma e a tuo papà questa rabbia? Sostanzialmente ti sei chiusa in uno stato di mutismo e silenzio? Sì, esatto, cioè non ho mai parlato con loro di questa cosa. Io credo che loro non si siano nemmeno accorti che io fossi così tanto arrabbiata. Ah, addirittura? Proprio sì. È scivolata via? Ma è una cosa che ti capita abitualmente anche con gli amici, cioè di non raccontare dei disagi, oppure ha a che fare proprio con gli adulti o con i genitori nella fattispecie? Soprattutto con gli adulti, a volte anche con gli amici, però soprattutto con i miei genitori. Adesso come va, Maya, con i tuoi genitori? Rispetto a quella cosa là, sei ancora molto arrabbiata? Sì, con quel discorso sempre, però adesso non è migliorata la situazione, cioè credo che sia anche peggio. Ah, addirittura? Sì. Ma perché? Perché non riesci ad avere un dialogo con loro? Scusami, adesso ormai nella nuova scuola ti sei ambientata, immagino. Cioè hai... Sì. Quindi sì. Il problema non è più come stai tu rispetto al contesto in cui vivi, ma è la mancanza di rispetto che tu senti loro hanno avuto nei tuoi confronti nel non coinvolgerti? Esatto. E perché non riesci a parlargliene? Perché, cioè, anche perché sono i miei genitori, ma io con loro... E questa già di per sé è una risposta che comprendo benissimo, nel senso che con i genitori, soprattutto di certe cose, è difficile parlare, soprattutto a certa età. Però c'è qualcosa di più, mi dicevi? Sì, che comunque non riesco a dir loro tutto, soprattutto a partire dal fatto quello che mi è successo appunto 7 anni fa, mm-hmm. E da lì non riesco più a parlare con loro di tutto, cioè io mi tengo tutto per me chiuso, insomma. Ah, quindi la cosa si è ingigantita, cioè partendo da quella cosa lì tu non riesci più a raccontare niente a loro, dici? Esatto. Ma e loro non ti chiedono nulla? No, perché tanto sanno che vado bene a scuola, quindi non mi chiedono mai niente. Senti, ma ne hai parlato con qualcuno, cioè con i tuoi amici, con magari con qualche professore che è particolarmente in ascolto, insomma, con una, diciamo, con una persona che non sia parte della famiglia, se magari è una cosa comune? Scusami se ti faccio tutte queste domande, però davvero gli anni che ci separano sono un piccolo abisso, quindi prima sono molto curioso e secondo magari può servire anche a qualcuno che ci ascolta. Non ti interessa parlarne con nessuno per confrontarti di questa questione? No, cioè è che io credo, cioè io ci provo, a volte mi metto anche a scrivere testi e per parlare di questa cosa, solo che non mi metto a parlare molto volentieri di questa cosa. Ho capito, cioè del fatto che non riesci ad avere un dialogo con loro. Esatto. Senti Maya, appunto io non sono uno psicologo e non so se c'è una risposta. Io ti ringrazio per averci mandato la storia e non lo so, spero che magari avercela mandata, averla scritta possa esserti stata utile per capire un po' meglio e magari prendere una direzione. Per il resto ti faccio un sacco di in bocca al lupo per tutto. Cosa vuoi fare da grande, Maya? In realtà non lo so. Va bene, ti ho fatto delle domande semplici in questa chiacchierata. Perché non parli con i tuoi e perché cosa vuoi fare da grande? Per il resto invece, oggi pomeriggio cosa fai ad esempio? Oggi pomeriggio mi metterò a studiare. Bravissima, Maya, ti ringrazio molto, in bocca al lupo per tutto davvero, a presto. Grazie, arrivederci, buona giornata. Ciao. E ora chiudiamo, sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare a Linee d'Ombra. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. L'avete sentita la storia di Maya? È sì una storia dedicata all'ira, è in realtà una storia ed è una puntata un po' tutta dedicata all'ira assopita, a quell'ira che rimane lì e viene nascosta, viene come tenuta a bada. Tra l'altro nel suo caso ha a che fare con la famiglia, con i genitori nella fattispecie, ma direi con la famiglia anche. A un certo punto ha citato la sorella Maya e diceva bah sì, in realtà poi di lei non mi interessa tantissimo, ed è proprio di un rapporto tra fratelli che stiamo per parlare tra pochissimo. È una storia di rapporto tra fratelli, o meglio è la storia di una sorella, direi che è proprio la storia di una sorella quella che stiamo raccontando. Si chiamava Maria Anna ed era detta Nannerl, ed era la sorella maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart. Beh, lei aveva lo stesso talento del fratello, solo che il suo destino era un altro. Era imparare a cucire, doveva sposare un ricco barone, doveva diventare una buona moglie e una buona madre. E in questa puntata, proprio dedicata al vizio dell'ira, la seconda storia di oggi è proprio la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Eh sì, Nannerl era abile proprio quanto Wolfgang Amadeus. Durante la loro infanzia i due si esibirono insieme in giro per l'Europa e spesso fu proprio la sorella a conquistare maggiormente l'attenzione dei critici. In alcuni casi Nannerl fu in realtà recensita come il musicista di maggior talento fra i due. Fu però il papà, il capofamiglia Leopold, a decidere di sacrificare il talento della giovane figlia per puntare tutto sul figlio, su Wolfgang. I soldi non bastavano per finanziare i tour europei di entrambi. E così, a 18 anni, la carriera di Marianna fu interrotta. Mentre il padre Leopold nutriva i talenti di Wolfgang e faceva tournée con lui in Europa, Nannerl rimase indietro. Due secoli dopo la morte di suo fratello, Nannerl è una semplice nota a piè pagina nella biografia di Mozart. A ripescare dall'oblio la sua storia, però, è stato uno spettacolo teatrale che si intitola The Other Mozart, scritto dall'autrice Silvia Milo, che è nato in scena qualche anno fa, interpretato da Elena Bonham Carter. Utilizzando documenti e lettere della famiglia Mozart, lei ha deciso di dare voce alla sorella, la donna e all'artista, alla musicista che è stata e a quella che sarebbe potuta diventare. The Other Mozart, dice l'autrice, è nato in particolare quando mi trovavo a Vienna per un festival che celebrava il 250esimo compleanno di Mozart. Entrai nella sua casa e vidi il ritratto di famiglia, che era stato commissionato dal padre, Leopold. Era la prima volta che sono venuto a conoscenza dell'esistenza di Nannerl. La mia attenzione fu attratta dal fatto che accanto a Mozart c'era una donna che sembrava a sua pari. A quel punto ho approfondito le mie ricerche. Ho scoperto quanto suonasse bene. Ho visto che era lei ad essere scritturata come primo nome in molti dei loro spettacoli nelle corti di tutta Europa. Tuttavia, le cose che ha composto non sono sopravvissute. E mi è sembrata una storia che doveva essere raccontata. Se nessun altro l'avesse fatto, avrei deciso di farlo io. La ricerca non è stata facile, non ci sono biografie di Nannerl tradotte in inglese. Ce ne sono due in tedesco, ma sfortunatamente non parlo tedesco, quindi mi sono concentrata sulle lettere inviate dalla famiglia. Ma anche in queste, la voce di Nannerl compare molto poco. Ho trovato, continua la drammaturga, solo poche lettere tra lei e la madre. Quando invece abbiamo centinaia, forse migliaia di lettere tra Wolfgang e il padre. Mi colpirono specialmente alcune recensioni sul suo modo di suonare. Uno ha scritto: immagina una ragazza di 11 anni che suona le sonate e i concerti più difficili dei più grandi compositori, sul clavicembalo o sul fortepiano, con precisione, con incredibile leggerezza, con gusto impeccabile. È stata una fonte di meraviglia per molti. Nelle lettere del padre Leopold ad alcuni amici ci sono parecchie informazioni sul talento della figlia e sulla sua preoccupazione personale che mettesse in ombra il talento del fratello. Dopo che venne lasciata a casa, scrisse una composizione e la inviò a Wolfgang, che era in tournée. Purtroppo il brano è andato perso, ma abbiamo una lettera del fratello in risposta che le dice: «Non posso credere che tu componga così bene, è fantastico». Nannerl era una compositrice raffinata, ma non fu incoraggiata perché non c'era possibilità per una donna di lavorare come compositore o direttore d'orchestra. Wolfgang continuò ad incoraggiarla a scrivere di più, ma in altre lettere il padre sembra invece che la scoraggiasse a continuare. Sappiamo anche che quando Wolfgang si trasferì a Londra a lavorare alla sua prima sinfonia, lei trascrisse e orchestrò tutto per lui. Non è chiaro quanto sia stata grande la loro collaborazione, ma si trattava certamente di una musicista di enorme talento. Come interprete, per quanto si è capito, sembra che fosse migliore di Mozart. Oh, questo è quello che dicono le recensioni. Era più grande di lui e l'età, durante l'infanzia, giocava a suo favore. In termini di composizione, però, non lo sappiamo. Si pensa di poter affermare che Wolfgang non fosse il tipo che avrebbe mentito in una lettera a sua sorella. Se ha elogiato le sue composizioni, non si hanno motivi per pensare che non fossero buoni. L'oblio in cui la sua figura è caduta è causato da una combinazione di diversi fattori. All'epoca c'erano convinzioni molto strane sulle donne e sulla loro creatività. Sembra che ci fosse una profonda paura culturale della creatività della donna. Un critico, per motivare che Wolfgang avesse più talento di Nannerl, arrivò a dire che una donna non sarebbe in grado di avere figli se creasse arte, perché userebbe la sua creatività per un fine diverso da quello per cui lei esiste. Esistevano alcune donne compositrici, ma quelle che potevano mostrare il loro lavoro appartenevano alla nobiltà. Le donne dovevano dedicarsi alla musica solo come un piacevole passatempo. Se avessero mai guadagnato del denaro da quella musica, sarebbero state considerate delle prostitute. Ma oltre ai condizionamenti dell'epoca in cui visse, a impedire a Nannerl di dedicarsi totalmente alla musica, contribuirono anche le questioni economiche della famiglia Mozart. Oggi, quando pensiamo a Mozart, siamo molto condizionati dalla ricchezza dei vestiti broccati in cui è stato mostrato al cinema. Ma la sua famiglia non era una famiglia nobile o ricca. Erano in una posizione da classe media. Per finanziare i tour, il padre si è indebitato e ha chiesto diversi prestiti. Leopold ha rischiato tutto per promuovere il figlio Wolfgang, sperando in un ritorno futuro. Le decisioni prese da Leopold dunque possono sembrare dure, ma erano assolutamente logiche. Avevano senso per la sopravvivenza della famiglia in quell'epoca. If you leap awake in the mirror of a bad dream, and for a fraction of a second you can't remember where you are, just open your window. Follow your memory upstream to the meadow in the mountain where we counted every falling star. I believe the light that shines on you will shine on you forever. And though I can't guarantee there's nothing scary hiding under your gonna stand guard like a postcard of a golden retriever and never leave. till I leave you with a sweet dream in your. La storia della sorella di Mozart l'abbiamo trovata in un pezzo dell'Huffington Post che si intitolava By the way, Mozart had an equally talented sister. Comunque Mozart ha avuto una sorella di uguale talento, scritto da Lauren Duca. Tra pochissimo torniamo per raccontarvi ancora storie di fratelli. Prima le strade in diretta, poi di nuovo Linee d'Ombra. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Vi dicevo poco fa, continuiamo a raccontare, continuiamo a parlare storie legate all'ira e legate ai fratelli. Quando si parla di fratelli e quando si parla di, diciamo, insomma, blandamente, dissapori tra fratelli, vengono in mente due figure che sono due figure bibliche, due figure di riferimento che sono Caino e Abele. E quando noi vogliamo approfondire argomenti un po' più complessi del semplice raccontare una storia, lo facciamo con chi ne sa di più. E quindi abbiamo il telefono con noi, lui è un professore di filosofia ordinario, insegna filosofia morale, etica sociale, etica e antropologia filosofica all'Università Cattolica di Milano ed è autore di un testo che si intitola La domanda di Caino, male, perdono e fraternità. È il professor Franco Riva. Professor Riva, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui innanzitutto. E la prima domanda che mi viene da farle è: qual è la domanda di Caino? La domanda di Caino è una domanda con cui Caino risponde ad un'altra domanda. L'altra domanda a cui Caino risponde è quella nel racconto, nella fiction narrativa di Dio: dov'è tuo fratello? E Caino risponde con un'altra, con questa domanda. Questa è la sua domanda, che si può tradurre in diversi modi. Io preferisco quella di Martin Buber, che traduce così: non so, punto. Sono responsabile di mio fratello? Ecco qual è la domanda. Quindi è il tema è quella della responsabilità tra consanguinei, tra fratelli in questo caso. Da un lato. Dall'altra parte il tema è che non si è fratelli automaticamente per questioni di sangue, di appartenenza, di razza, di cultura. Si diventa fratelli nella responsabilità. Professor Riva, in che modo quindi la responsabilità ci rende fratelli? Cioè il fatto di prenderci cura di qualcuno fa sì che due persone anche non consanguinee abbiano di fatto un rapporto stretto? Questo ci racconta Caino. Questo è un aspetto. Uh-huh. C'è sempre un profilo di, come dire, di cura, di solidarietà in qualche modo, ma si diventa fratelli e si resta fratelli solo nella responsabilità per un'altra tematica, e cioè perché la fraternità fa vivere la differenza, la non identità con l'altro, ed è qui che si generano tutte le confusioni, sia personali sia anche collettive, perché le virtù o i vizi si spendono anche a livello collettivo, della fraternità. Quindi, mi perdoni, noi abbiamo appena raccontato una storia che ha a che fare con due fratelli, che sono i fratelli Mozart, di cui appunto si è venuto a sapere abbastanza recentemente, qualche anno fa, o perlomeno è stata portata alla luce in maniera effettiva, quanto Mozart avesse una sorella e quanto questa sorella fosse capace, quanto se non più, di lui. In questo caso possiamo parlare di mancanza di responsabilità da parte del fratello nei confronti della sorella, cioè il fatto che un fratello, è vero che erano altri anni, erano altre situazioni storiche, cioè il fatto che un fratello non renda alla sorella il merito che la sorella ha, ha a che fare con la mancanza di responsabilità? Mi pare che in fondo, nel fondo del fondo, quindi al di là dell'invidia, al di là del sospetto che pure ci si porta dietro in queste situazioni, sia esattamente questo, una mancanza di responsabilità per l'altro in quanto altro, per la sua bravura. A prescindere quindi dal fatto che siamo fratelli oppure no, mi sembra di continuare a leggere, giusto? A prescindere. A prescindere. Sì. Io la ringrazio moltissimo. Se volete saperne qualcosa di più, leggete La domanda di Caino, pubblicato da Castelvecchi. Grazie mille, professor Franco Riva. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata. mille figli unico, perché non ha mai trovato il coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto-Ancona. Un film senza prima vederlo mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. E ti amo, Mario. E anche se appunto non si è fratelli, il concetto di responsabilità, come ci ha raccontato il professor Riva, ha a che fare con sentirsi vicini a qualcun altro, e probabilmente è un'altra storia quella che stiamo per raccontarvi, senza dubbio è un'altra storia, la storia di Giorgio Bazzega, che ci sta raccontando passo passo la sua vita, ci sta raccontando di cosa accade a un ragazzo, a un bambino piccolissimo, quando il padre viene ucciso negli anni 70 in una Milano in cui le Brigate Rosse di fatto hanno in pugno un pezzo della città. Suo padre viene ucciso da un brigatista e lui per tutta la sua vita non fa altro che covare un desiderio di vendetta. In questo episodio particolare della storia seriale che vi stiamo raccontando grazie a lui e grazie a Mauro Pescio che la raccoglie per noi, vi racconteremo in che modo Giorgio si prepara a questa vendetta, come fa sì che la rabbia diventi una corazza che lo aiuti a scagliarsi contro quelli che secondo lui sono i suoi nemici. Ci ho impiegato anni a trovare gli indirizzi di dove vivevano. Mio padre era stato un grande investigatore e io dovevo essere alla sua altezza. Ai tempi non c'era internet e mica li trovavi sulle pagine gialle. Che erano i famosi, perché ero ignorante. Io non è che avevo fatto una scelta in base a delle responsabilità specifiche. Io quelli famosi che vedevo, Moretti, Morucci, Gallinari, Monisoli, quelli più famosi. E Curcio ovviamente, però Curcio era l'unico. Per cui gli altri se vogliamo messi, perché non lo so, poi era il periodo anche che mi facevo, sai, quando ti fece sempre le manie di grandezza, c'era una battuta tra di noi che dicevamo, sai, quando parto ti fai due botte, ti fai due colpi e volano i miliardi, diventano tutti imprenditori, diventano tutti vendicatori, per cui ti vengono le manie di grandezza, per cui mi ero immaginato quasi vendicatore, ma quello che c'avevo nella testa io veramente di andare a prendere era lui, e lui voleva andarlo a prendere. Dovevo andare, magari sapendo che in questura c'era qualcuno che investigava, partendo molto alla lontana. Non chiedevo mai direttamente di loro, facevo altre domande, stavo sempre sul vago. E poi incrociavo le informazioni che reperivo con quello che leggevo sui giornali o sentivo in TV. È così che sono arrivato all'indirizzo preciso dell'abitazione di Curcio. Il mio piano era semplice, io non avevo piani. Aspettavo il giorno in cui mi sarei svegliato, che era il giorno giusto. Avrei preso la macchina, sarei andato sotto casa sua e l'avrei massacrato di botte. Non me ne fregava di farlo senza farmi beccare. Al contrario, io ero orgoglioso di fare quello che avevo in mente di fare. Volevo che lo sapessero tutti che ero stato io. Volevo che il fatto andasse sui giornali e io lì, con la sua testa in mano, non so come dirti. Io sapevo che sarei finito in galera. Non me ne fregava un cazzo. Ma ti spiego, in quel momento io odiavo lo Stato. Lo Stato aveva pisciato sui valori di mio padre e sulla memoria di mio padre. Ti sto parlando come ti avrei parlato ai tempi. Cioè, aveva fatto esattamente questo per quello nella mia testa. Io lo Stato lo odiavo, mi metteva in galera, una medaglia quasi. Tu pensa, cioè avevo la mentalità da balordo proprio, quasi da malavitoso. Ma perché io proprio odiavo lo Stato. Non mi fregava, ma io facevo di tutto per andare contro le regole dello Stato. Lo sfidavo proprio. Ero sempre fatto in quel periodo. In quartiere mi avevano preso sotto la loro ala quelli che comandavano, ma non i ragazzetti che comandavano la piazza. No, no, i narcos che comandavano Milano. Allora era la Barona che gestiva lo spaccio di cocaina a Milano, in città, e io ero finito con loro paradossalmente anche per la mia storia. Papà era conosciuto, era rispettato anche dai delinquenti. Il problema mio è stato che poi, crescendo, a questi delinquenti stavo simpatico. Avevo la fama di portare bene, che quando c'ero io non succedeva niente, e per questo le loro case erano sempre aperte per me. La chiudiamo così questa puntata di Linee d'Ombra, dopo aver sentito la storia appunto raccontata da Giorgio Bazzega, che è una storia di ira e che ci racconta il suo desiderio di vendetta. La chiudiamo così come abbiamo aperto, la chiudiamo con un messaggio che è arrivato sul profilo Facebook di Linee d'Ombra di Giovanna, che di fatto è una risposta alla storia di Maya. E probabilmente, non so se Maya ci sta ancora ascoltando, ma può essere probabilmente di conforto in qualche modo. Scrive Giovanna: anch'io come Maya fui costretta a cambiare scuola a 9 anni a causa del mestiere di mio padre, che decise di trasferirsi. Era il 69, ricordo questo strappo come fosse ieri, e piansi di rabbia e dolore per mesi e mesi. Non esisteva niente, nessuno che potesse fermarmi. La mia maestra fece scrivere delle letterine ai compagni per un periodo, un pacco di lettere che ricevevo puntualmente e conservo tuttora. Ho 59 anni e convivo con questa lacerazione da allora. Comprendo perfettamente lo stato d'animo di Maya. Le mando un grande abbraccio. Lasciamo la linea al GR e torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!